che arriva a gente sono qua a cena, quindi non posso trattenermi stasera. Ho pensato di avvisarti, perché poi magari aspetta inutilmente, capito? Fra una decina di minuti sta arrivando la roba, quindi dobbiamo cenare, eccetera, eccetera. E abbiamo ordinato le pizze, quindi fra poco devo mollarmi. Non ti preoccupare già, tranquillo, una pizza anche a me, e nel caso domani, dai, non c'è problema, divertiti, già ci sentiamo domani. Divertiti, dai, siamo in compagnia, ma non è che... Già ci vuole ogni tanto, là, per tagliare un po' la monotonia, dovrebbe entrare Pomponio, aspetta un po', vediamo, dai, d'accordo, appetito allora, prendi la vegetariana la pizza, mi raccomando. No, Giorgio, saltone cipolle. No, è senza formaggio, senza mozzarella perché è derivata dalla carne. Dunque, fai la pasta, sugo e verdure, basta così. No, saltone cipolle, buono. E allora saltone cipolle, dai. È una bella, è un bel bicchiere di birra. Va bene, appetito allora, già domani. Allora, Antonio, ci sentiamo, mi dispiace, ma non posso farne a meno. Non ti preoccupare, è stato gentilissimo, tranquillo, non ti preoccupare. Sento Antonello. Ehi, ciao Bombolo, buonasera. Buonasera. E allora? Io mi sto smontando piano piano un televisore della Samsung che mi hanno regalato, 50 pollici. E dice l'hanno portato a sistemare, e dice ci voglio sui 200 euro. Non so se ne valga la pena, comunque è veramente gigantesco, una cosa impressionante. Computer di tutto, telecomando, istruzioni e così via. Sto vedendo a vedere se riesco a capire che diavolo ha, sono curioso a vedere come è fatto dentro. Sono di quelle piatte. Non è a LED, è al plasma. C'ha 3 anni questo televisore. 3 anni, poi non ha fatto estensione di garanzia. No, lo faccio io. Se non hanno fatto l'edizione di garanzia e nel terzo anno giustamente non entra. Tu che dici che ci vogliono 200 euro, stavo pensando se ne valeva la pena oppure no. Ma che l'ha portato? E la verità non lo so, sicuramente in paese, non credo a Sassari. Scappa, posso sapere che pezzo è e te lo sistemi. Chi gliel'ha controllato dice che c'è una scheda da cambiare, poi qual è la scheda? Non te lo diranno mai. E dico che è una cosa impressionante, guarda, è gigantesco, c'è, e ci c'è anche abbastanza, 440 watt, dunque con quello che ho a casa accendo solo a lui, come che ne abbia 4 dei televisori che ha a casa accesi, tutti accesi solo per lui. Sono di quelle classe di roba vecchia, Quelli di adesso non consumano così. Beh no, perché adesso la nuova generazione sono a legge, ma questo ha 3 anni. Chiaro, li fanno ancora questi modelli, ho visto che li stanno facendo ancora. Per 50 kg, vedi tu, questo televisore. Adesso vedo un po' piano piano, se ne vale la pena lo sistema, poi lo venderò e dopo li zecca. Perché questi qui hanno lì di là, e dunque non stanno lì a preoccuparsi più di tanto, e se lo vogliono comprare quello a LED. Ma io li ho visti tutti e due, secondo me a LED è migliore, ognuno dica la sua. Ma quello pienamente d'accordo, beh, giustamente nuova generazione, è molto più tecnologico e migliorato anche nell'immagine, ma ti dico che non è male neanche questo, porca miseria. Allora molti dicono, ah, cosa stai dicendo, l'LCD è migliore secondo me nell'immagine. Secondo me a LED è molto migliore, lo vedo meglio. Lo vedo proprio, ognuno dice la sua. Quello concordo anch'io, il LED è tutta un'altra storia, non è che a paragone. Le immagini rimangono molto più nitide, più luminose, sono molti più colori. È tutta un'altra storia, ripeto, nuova generazione, dunque hanno migliorato l'immagine. Però ripeto, per non averne, è buono anche questo, ma Dio mio. Consumano anche di meno, consumano, un bel di meno. Cioè, perché i nuovi già te li fanno pagare, qualcosa di vecchio ti danno a poco prezzo, quando anche nelle occasioni delle generazioni vecchie, quelle nuove maledizioni se li fanno pagare. Adesso vedo un po', adesso lo porterò da qualcuno, glielo faccio controllare, poi mi dirà quanto è la spesa, se ne vale la pena, buono, se no gli facciamo fare un volo lì a la discarica. No. Bisogna capire che cazzo è questo componente bruciato e questo andare a cercarlo. Non ne vale la pena, cioè, oramai, ma anche quelli a letto sono scesi parecchio di prezzo. Quello già è vero, ma mi sono accorto di una cosa, guarda, quei televisori a tubo catodico quanti anni ti duravano? Anche 5, anche di più, anche buono una decina d'anni prima che si rovinavano, si consumava qualche pezzo e lo portava a riparare. E questo ho notato che si rompono abbastanza in fretta e usa e getta le stanno facendo, porca miseria. No, si rompono in fretta perché sono un attimale. Durano se sono buoni, capito? Cioè, se vanno bene, non hanno mai difetti. Quello lì sicuramente è andato male. Perché, vabbè, io sono giovane, insomma. Io ho preso quello 44 pollici, adesso non mi ricordo. Comunque è un bel grande, 45 pollici mi pare, 46. E l'ho pagato, mi sembra, Smart TV, quasi 400 euro l'ho pagato. Bello, che praticamente lo colleghi in internet, hai capito? C'ha on demand tutto quanto. Io ho capito, anche io l'avevo preso per dire quanto avevo comprato, anche io il televisore, il primo, diciamo, piatto, ma per modo di dire, non è a LED, era stato buono 2 anni fa. Quanto mi è durato? Dopo il quinto mese non funzionava più, l'ho provato a riparare e c'è stato un mese, non riuscite a cavarne piede, hanno spedito fuori alla casa madre, il giro di 3 giorni, dopo un mese e 3 giorni mi hanno spedito nuovo con un modello un pochettino più avanzato, dunque neanche loro riescono a cavarne i piedi, sicuramente era troppo dispendioso il pezzo che si era bruciato e dunque mi hanno ridato nuovo di zecca con un modello un pochettino più avanzato. Se dopo chi dica, quando abbiamo fatto neanche 2 anni, per dire, il mio uno che mi hanno regalato quando mi sono sposato nel 2000, conta 12 anni della Mivar, sempre funzionante, tubo catodico, non ha conosciuto mai un tecnico per mettergli le mano sopra, sempre funzionante. E continua sempre a funzionare perché c'ho nella mia stanza. Dipende, a fortuna, questo c'ha un anno e quasi un anno, un anno non ce l'ha questo che ho io qua. Non ha mai subito un problema della Toshiba, vabbè, questo è buono, non ha mai avuto problemi. Stiamo parlando di ultime marche, quella Toshiba non è male, non ce n'è molto in commercio qua, comunque si dipende abbastanza bene. Qui ormai è tutto Samsung, comandano loro a quanto pare. Negli anni 80 era la Grundig che vendeva un saccaccio di televisori, negli anni 80, adesso in questi nuovi anni la Samsung si è preso una bella fetta diciamo, nel commercio sia di televisori che di telefonini, e già si dà da fare maledizione. Cappa, quello, io non ho preso uno della Samsung questo, ne ho preso, anche sui telefonini la Samsung è andata, fatto passi da gigante, soprattutto col sistema Android, è micidiale. Quello già è vero, non tanto prima c'era la Nokia, che era il migliore telefonini all'epoca, poi stranamente non ho fatto più pubblicità, ne ho visto poche niente in vendita, solamente Samsung, qualcosa LG, Sony, ma veramente pochi Sony, ma la maggior parte sono tutti Samsung. E per dire quant'è, 4 anni fa, 5 anni fa, la Nokia era abbastanza viva, diciamo, nel mercato, adesso è sparita anche lei, sicuramente la Samsung già si vede da... Sì, beh, come ti posso dire, a buon prezzo la tecnologia è abbastanza un pochettino più avanzata a confronto agli altri, dunque c'è qualità a prezzo, ecco, e dunque sta andando sicuramente per quello anche. Il più venduto comunque è Lumia della Nokia, è molto veloce la verità, è velocissimo come telefono, però ha delle piccole cose, cioè le cose mi piace di più. Samsung con il sistema Android è un po' migliore secondo me. E hai detto un beep? Un beep beep due o tre volte l'ha fatto, ho fatto un attimo di bianco per la possibilità di entrare. Devo entrare avanti. Avanti? Stavo dicendo Antone, comunque è buono, sono buone, caso qua, il Nokia è velocissimo su internet, addirittura anche il mio lo fa, ho scaricato l'applicazione e mi funziona come router per internet, hai capito? Scusami un attimo, c'era, se non sbaglio, il Moro che stava chiamando, vediamo un po' se mi senti, avanti. Sei forte e chiaro, lo senti Bombolo al Moro? Non ti sente Bombolo, avanti con la buonasera. IAK, e lo so, in questo momento sono piccolo, sono liscio. No, tu sei qua, Santiago 5, Radio 5 da parte mia. Se ha voglia di lusso, non c'è problema, no. Credo che anche tu abbia abbandonato perché vedo che la situazione è abbastanza critica. Sì, Zumasa. Io vedo che la situazione con le CB è abbastanza critica, molti stanno diciamo abbandonando. Credevo che anche tu avevi mollato. Già vabbè, non l'hai sentito a coso, a Gianni di Chiaramonte? Ancora, ma anche io sono un po' senza sentirlo. Che sono un po' di tempo senza sentirlo a Gianni. Avanti Bombolo, stavo parlando con il Moro, che purtroppo non ti sente. E guarda, generalmente anche chi ha l'antenna grande, qua nella zona bassa di Sassari non arriva, generalmente, fino a un certo. Ma a parte me arriva abbastanza bene, e a voi, Santiago 5 Radio 5 già pulito, è perfetto, no, a me arriva benissimo. Ma nella zona bassa di Sassari non arriva lui, hai capito? Non lo sente nessuno, non lo sente. Arriva solo dalla parte alta di Sassari, che è tipo Pomponio, Claudio, allora sì che arriva. Ma qua nella bassa valle no, non arriva mai. Giustamente anche tu lo presidi adesso in questo momento, antenna pure non ne hai. Dunque anche per quello la situazione, ma si può fare anche da tramite. Io anche lì sto arrivando basso, perché sono spento. Però già bene o male già riesci a tirarmi fuori. No, io è perfetto qua da parte mia. È perfetto. Adesso ti sento benissimo qua. Stavo dicendo il discorso di poco fa, che il mio cellulare, io posso collegare anche un computer, funziona così, funziona da router, capito, senza file, wireless. Sei un tablet, proprio un tablet è quello che hai, o proprio un telefonino? Mio telefonino, cioè la promozione, io ho internet nel telefonino, giusto? E io posso collegarlo anche nel computer. Accendo il computer, mi si collega, accendo, schiaccio, vado giù, schiaccio il router, WinWi-Fi, sta, e faccio funzionare il computer, capito? E poche parole lo utilizzi come pennino alla fine? No, non l'attacco wireless portatile, capito? Come quello di casa, se ne presente quelli di casa senza fili, così? Tra aspetta, ovviamente io c'ho un esempio, c'ho quel computer di casa, ecco, cosa fai? Tu attacchi un cavo al telefonino al computer, dunque alla fine il tuo telefono diventa un pennino tramite connessione internet, ecco, e poi tramite lo schermo del computer lo vedi in grandezza naturale. Sì, appena detto, senza fili, non mi hai capito, senza fili, così si collega tramite segnale, capito? Un segnale wifi? Sì, te lo sto dicendo. Ho capito, è quello che è sempre il modello della Samsung. Sì, guarda, ho scaricato l'applicazione e funziona, tipo, funziona così, come il mio cellulare. Io adesso, per esempio, sono fuori di casa, mi porto il computer, schiaccio WinFi, per la prima volta, siccome c'ho la password, ci metto la password, cioè, richiede la password, ci metto la password, ma il computer funziona, hai capito? Poi dopo il computer se lo memorizza, è come un router di casa, lo conosci il router? Senza fili, non devi attaccare niente senza fili, così funziona lui. E perfetto, alla fine diciamo che poi c'hai una promozione tramite la scheda che stai utilizzando per telefonare, in poche parole. Scappa, il mio cellulare va già su internet, pago 9 euro al mese. Il mio cellulare funziona su internet. Io ho questo cazzo di applicazione, prendo l'attivo e lui giustamente perché il portatile c'ha il wireless, c'ha WinFi, senza fili, e si collega, hai capito? Sì, sì, bene, sì, non so, ho capito cos'è, giustamente ci vuole sempre un computer. Mi sa che stava chiamando Elmore, avanti. No, ora mi sono sbagliato. Appa. Quello che vuoi ci colleghi, puoi mandarli a un altro telefono, li puoi mandare, capito? A un altro telefonino uguale che c'ha WinFi, che riceve il segnale, così, cioè, puoi fare quello che cavolo vuoi, a un tablet, a un iPhone, a quello che vuoi. Sì, ho capito, avanti, mi stava chiamando di nuovo il muro, avanti. Si è arrivato Santiago, sì, quasi 7, e la radio sembra che si sia duplicata. Ah, ecco. No, adesso sei veramente forte, senza nessun disturbo, e stai arrivando veramente, veramente bene, una bella radio. Ma è tranquillo, già non ti abbandono, già, meno male, già cerco sempre qualcuno per una chiacchierata in frequenza. Già non si abbandona il baracchino, non ti preoccupare, qualcuno ce lo trovi sempre a fare una chiacchierata. Aspetta che glielo chiedo, Bombo, adesso lo senti? Ti ha dato una piccola marcia in più. No, ho spiegato che già con l'antenna grande, anche avendo una mantova qua, già non arriva tutto il giorno. Anche se lui è alta, io non lo sento, è negativo perché io sono nella parte a valle. Hai capito? Anche con l'antenna grande qua non arriva. E lo so che è così. Che maestro, mi ha chiesto lui di chiedertelo perché ha dato, diciamo, ha aumentato un pochettino la situazione. E dunque me l'ha chiesto a vedere se riusciva a sentirti tutto lì. No, non arriva. Non arriva perché così, no, normalmente no. Non arriva con l'antenna grande, immaginiamoci con la piccola. Anche spingendo, no, non arriva niente, butto già tutto coperto qua. Se vai nella zona di via Milano, allora sì. E giustamente gli rimane più aperta. No, no, non gli arrivi, anche se gli hai messo una marcia in più non gli arrivi, E perfetto, non c'è problema, dai. Adesso vediamo se dovrebbe entrare Pompugno o poi passiamo direttamente sul 45. Va bene, da voi. Yeah, ciao, ci sentiamo. Ti saluta Bombo, le sta passando sul 45. Se c'è nel caso di passare dopo. Chi c'è sul 45? Sicuramente si daranno appuntamento con qualcun altro, non me l'ha detto con chi si doveva collegare. Oh, vabbè, Massimo Di Bianco che mi stanno chiamando. Eia. Oh, Antonello. Mi tutto. Scappa, dai. Devo chiudere perché mi hanno chiamato. Porcaccia la miseriaccia. Però c'ero anche rimasto un po', dai. Non ti preoccupare, sono proprio lì a guardare chi c'è sul 45 e poi se c'hai tempo mi troverai lì, non c'è problema, vai tranquillo. Caffa. Cerchiamo un po' di farlo, come si dice, di farlo movimentare un po', hai capito? Che mi fa piacere. È perfetto, non ti preoccupare, non c'è problema, dai. Se nel caso non coincide domani, già l'attacco sempre sul 10, verso le 9 in poi, dai, non ti preoccupare. Ciao, dai, ciao ciao. Yeah, ciao bombolo, alle prossime. Non prossima, prossime. Bombo!